Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Faccio vedere un po' com'è la giornata lavorativa qui in California. Partiamo disconnettendo la nostra macchina elettrica e andiamo a lavorare. E adesso su questa strada qua, su tutte queste strade laterali, ci sono ditte dappertutto. Qui per esempio c'è la Symantec, che è quella degli antivirus. E poi in tutti questi palazzi che vedete qua intorno ci sono letteralmente centinaia e centinaia di start-up, di aziende piccoline che creano innovazione, hanno nuove idee e un giorno le conoscerete anche voi, adesso chiaramente sono ditte sconosciute. Oggi è venerdì, per cui c'è poca gente, un sacco di gente lavora da casa. Qui in Silicon Valley non abbiamo orari di lavoro, non abbiamo cartellino, basta che fai il tuo lavoro, non importa se vieni in ufficio, se stai a casa, basta che lo fai. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Oggi copertina con Viva la Focaccia, un giorno al lavoro con Vittorio in Silicon Valley, dove Vittorio sta per Vittorio Viarengo, uno degli imprenditori italiani più noti in California. Davvero un documento straordinario per capire come si lavora nella culla mondiale dell'innovazione. E oggi proprio il tema innovazione sarà al centro della nostra puntata. Torniamo a parlare anche di give back, di restituire al proprio paese. Due mesi fa abbiamo ospitato Vincenzo Di Nicola, imprenditore innovativo rientrato dalle States per aprire una propria attività in Italia. Oggi ai nostri microfoni un team di giovanissimi imprenditori che dall'Inghilterra hanno lanciato un ponte verso il nostro paese, creando posti di lavoro qui. Stay tuned. La nostra voglia di cambiare nello sguardo di quel giovane che sta preparando la valigia e non si sente cittadino del mondo, ma costretto a emigrare come fecero i suoi nonni. Ed è per tutti quei volti che noi vogliamo, sì, noi vogliamo che si cambi verso. E al di là delle valutazioni di merito o politiche, oggi la frase della settimana è copyright della segretaria CGIL Susanna Camusso, che una settimana fa, nel giorno della manifestazione di piazza, ha voluto ricordare i nostri giovani emigranti. Non sempre, infatti, la fuga dall'Italia è una libera scelta, questo lo ripetiamo da anni, anzi, spesso non lo è affatto. L'Italia infatti continua ad essere fanalino di coda dell'Unione Europea per tasso di posti vacanti di cui le imprese sono in cerca. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre ci fermiamo allo 0,5 contro l'1,6 della media comunitaria, collocandoci nelle ultime posizioni. Siamo molto lontani da paesi come Germania, Belgio o Regno Unito, peggio di noi solo la Lettonia. Ma pensate un po', ci sono anche giovani italiani espatriati che i posti di lavoro stanno cominciando a crearli nella penisola, usando capitali esteri per aprire filiali qui. L'inizio di un nuovo trend. Noi di Fruentify vediamo l'Italia come una grande opportunità ed è anche per questo che Fruentify ha deciso di investire nel nostro paese, in Italia. Giacomo Moiso, 25 anni, è uno start-upper di base a Londra. Con altri tre colleghi ha fondato Fluentify, azienda che dall'Inghilterra sta tornando in Italia in un interessante esperimento di rilocalizzazione. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Si chiama Primi Passi a Parigi, l'iniziativa lanciata dal nostro consolato per dare informazioni di carattere generale a chi è arrivato da poco in Francia. Sotto forma di atelier, gli incontri sono destinati a connazionali che intendono stabilirsi nella regione parigina per studio o lavoro. Il primo incontro si terrà il 6 novembre. Per partecipare è necessario inviare una email all'indirizzo segreteria.parigi@esteri.it. Tra poche settimane, focus di Giovani Talenti su questa iniziativa. Intanto è stata coronata dal successo l'analoga iniziativa Primo Approdo, organizzata dal Consolato di Londra. 10 incontri finora realizzati con 630 partecipanti neoimmigrati italiani nella capitale britannica che vi hanno preso parte. Italia poco attrattiva per gli stranieri qualificati, lo denuncia un rapporto della Fondazione Moressa, secondo cui meno di 1 su 10 tra quelli residenti nel nostro paese può sfoggiare un titolo di studio pari almeno alla laurea. La metà degli immigrati in Italia ha un'istruzione bassa, 4 su 10 non sono andati oltre il diploma. Dal 2007 la percentuale di immigrati altamente qualificati in Italia è calata, a differenza di altri paesi europei. Con il nostro 9% siamo persino alle spalle della Grecia. In Gran Bretagna ha la laurea un immigrato su 2, in Svezia 4 su 10. Il basso livello di istruzione degli immigrati in Italia riflette, ricordiamolo, l'altrettanto basso grado di istruzione degli italiani. Intanto, secondo dati pubblicati dal quotidiano La Repubblica, i ricercatori con un dottorato che lasciano l'Italia sono 7 volte più numerosi dei colleghi stranieri che arrivano nella penisola. E ora parliamo di un interessante progetto curato da IESEC. Si chiama Global Talent e permette ai giovani laureandi e laureati di svolgere un periodo di tirocinio all'estero per 3-12 mesi presso aziende partner. Le candidature sono aperte tutto l'anno. Ne parliamo con Mariangela Colasanti, responsabile nazionale di Global Talent per IESEC. Global Talent è un programma di placement internazionale, quindi permettiamo ai giovani neolaureati e laureati al di sotto dei 30 anni di effettuare un'esperienza di stage all'estero e nel contempo alle aziende italiane di inserire giovani provenienti dall'estero all'interno del proprio organico con un percorso di tirocinio. L'obiettivo è quello di stringere partnership interessanti sia con gli studenti sia con le aziende che valutano un processo di internazionalizzazione come un valore aggiunto, sia per la propria esperienza personale sia come stimolo e strumento di competitività e innovazione all'interno del nostro paese. A chi è destinato Global Talent? È destinato sia agli studenti sia alle aziende, qualsiasi tipo di aziende che abbia voglia di internazionalizzarsi sul territorio italiano. Laureandi o neolaureati? Esattamente, al di sotto dei 30 anni. Under 30, ecco. E come fare per candidarsi? Per candidarsi basta andare sui nostri contatti, scrivere a info@chiocciolaiesec.it o andare su Facebook, eccetera. Ci sarà un modulo da compilare per iscriversi e appunto l'idea è capire il tipo di profilo che si ha di fronte, che cosa effettivamente lo studente ricerca e cercare di trovare il giusto tirocinio all'estero per lui tra le opportunità che noi promuoviamo. Quali professioni normalmente e paesi sono più battuti? Le mete principali attualmente sono ad esempio Brasile, India, Russia, la Cina, l'Ungheria, la Romania. Le professioni dipende, ci sono ad esempio moltissimi stage in marketing per quanto riguarda import-export, comunicazione, ambito del digital marketing, social media, ma anche molti in insegnamento delle lingue, sia italiana sia inglese, e vengono valutate anche le esperienze di information technology o ingegneria. Però diciamo che principalmente ci occupiamo soprattutto di tirocini di marketing e di insegnamento della lingua. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a prendere il volo verso Oltremanica. Ma attenzione, stavolta abbiamo anche provveduto a costruire un possibile ponte di ritorno. Nome: Giacomo. Cognome: Moiso. Età: 25 anni. Città di origine: Torino. Studi: economia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006 per la prima volta. Per andare dove? In Australia. Perché? Per migliorare l'inglese. Quale lavoro svolgi attualmente? CEO e co-founder di Fluentify. Dove? A Londra. Tornerai? Sì, non ho dubbi. Mind the gap. In Italia le startup e i progetti come il nostro sono considerati un gioco. Dopo la laurea siamo tornati a Torino e abbiamo parlato di Fluentify con un nostro professore universitario. Lui ci ha risposto: bellissima idea, ma state cercando un lavoro? Giacomo, così uno dei tuoi colleghi Andrea Passadori ricordava in un'intervista i vostri primi passi da startuppers. Al di là della burocrazia, c'è secondo te un enorme problema culturale che ha fatto dell'Italia terra di creativi, un posto dove le idee innovative vengono soppresse in culla? Sì, io più che problema culturale parlerei di un problema di mentalità. Come ricordavi, appunto, in Italia spesso fare startup viene visto come giocare, viene visto come un gioco. Nella realtà dei fatti però non è così. Pensiamo che ad esempio solamente a Londra, nella Tech City, quindi nell'area dove il numero di startup è più elevato, dove c'è la più alta concentrazione di startup, ci sono oltre 600.000 persone che lavorano per società internet e tech. Questo è un dato... startup è tutto ma non un gioco, ecco. Esatto, questo è un dato assolutamente importante. Partiamo dall'inizio. Per te una laurea in economia all'Università di Torino, che giudizio dai sul livello qualitativo delle nostre università? Le nostre università danno sicuramente ottime basi teoriche, ma vedo una grossa lacuna tra mondo del lavoro e mondo universitario. In Germania, ad esempio, i ragazzi quando ancora fanno le superiori hanno la possibilità e l'obbligo di fare delle esperienze di lavoro nelle aziende, ma in banche, società di consulenza. Questo è quello che vedo che manca maggiormente nel nostro paese e che rende appunto difficile poi inserirsi nel mondo del lavoro subito dopo appunto gli studi. Ed è da tanti anni che lo dicevamo, ma vedo che non cambia molto la situazione purtroppo. A cambiare il corso delle cose, un master in management internazionale che scegli di frequentare alla École Supérieure de Commerce de Paris, perché la scelta di completare la formazione all'estero? Sapevo che indipendentemente da quello che avrei voluto fare, deciso di fare nella vita, saper parlare le lingue sarebbe stato comunque un asset fondamentale. Quindi ho deciso di intraprendere un percorso internazionale che mi ha portato appunto a Londra e a Parigi. Tu avevi mai pensato di diventare imprenditore? Sì, era un sogno che ho sempre avuto e poi tra l'altro ho lavorato negli anni appunto di Londra in un acceleratore di startup, quindi dove mi sono affacciato, avvicinato moltissimo all'ecosistema imprenditoriale tech, quindi sì, era qualcosa che avevo già in progetto. Mi piace la parola ecosistema perché è tutto un problema di creare ecosistemi produttivi. Nel corso del master incontri Andrea Passadori, allora la domanda è: come nasce l'idea di avviare Fluentify? Studiando all'estero ci siamo resi conto che saper parlare, saper leggere in una lingua straniera, nel nostro caso in inglese, non significa saperlo però parlare, non significa sapere l'inglese quello vero, quello che serve per davvero. Infatti, usciti dalle mura dell'università per cercare un'esperienza di lavoro, per cercare uno stage, ci siamo resi conto che l'inglese che si parla negli uffici, l'inglese che si parla appunto al telefono durante un colloquio, non è quello delle mura universitarie o delle scuole di lingua. E di lì l'idea di creare una piattaforma dove si parla con degli inglesi, con dei tutor veri, giusto? Questa è l'idea di Fluentify. Esattamente. Fluentify è un nuovo metodo naturale ma soprattutto efficace per migliorare l'inglese parlando con madrelingua selezionati e che condividano gli interessi di ciascuno. Ed è impressionante la semplicità con cui nasce la vostra startup in termini di modalità, costi e tempi. In due parole ce lo spieghi? Fluentify è nata in meno di 30 minuti online con 15 sterline. Questo è stato possibile perché appunto l'Inghilterra agisce come facilitatore, fanno di tutto per rendere la burocrazia snella e il più semplice possibile. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giacomo Moiso, 25enne cofondatore e CEO della startup Fluentify a Londra. Con Giacomo raccontiamo la storia di quattro giovanissimi imprenditori che in Gran Bretagna hanno aperto una società web che ha fatto molto parlare di sé e continua a far parlare di sé perché in pieno spirito di give back e riconnessione col sistema Italia il team ha deciso di aprire una sede a Torino assumendo giovani. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E allora Giacomo, raccontiamo quali sono i plus in termini concreti offerti da Londra. Londra offre un mercato di capitali molto sviluppato. Per una realtà come la nostra, per una startup, è fondamentale poter interagire e accedere al mercato dei capitali, quindi con fondi venture capital o business angel. L'Inghilterra ha alimentato questo mercato in maniera del tutto artificiale, andando a spingere persone con patrimoni molto elevati o redditi importanti a investire in startup, e questo è stato fatto attraverso degli incentivi fiscali, molto semplicemente. Infatti, fino a 5 anni fa, trovare un investimento non era semplice come oggi. Ma questa è stata, bisogna dirlo, bravura proprio del sistema inglese, del governo. Intanto ricordiamo, il team di fondatori si allarga a Matteo Valle e Claudio Bosco. Allora Giacomo, definiresti Londra come uno dei poli innovativi europei per le start-up insieme a Berlino? Tra Londra e Berlino quale città consiglieresti? Non conosco Berlino abbastanza bene per poter fare un paragone oggettivo, ma sicuramente a Londra non manca nulla ed è uno dei poli principali per fare startup nel mondo, questo sì. L'unico svantaggio è che costa moltissimo, il costo della vita è elevato, e so che a Berlino questo è diverso, quindi sicuramente se la contendono, ecco. Ma è vero che un investitore vi ha detto: se la vostra società fosse stata di diritto italiano io non vi avrei finanziato? Sì, è vero, e tra l'altro era una domanda ricorrente, nel senso, spesso ci veniva detto: benissimo, voi siete italiani, non è un problema, ma la società è inglese, vero? Ma quindi, senti Giacomo, cos'è che scoraggia i fondi di investimento esteri quando guardano al nostro paese, secondo te? Sono principalmente tre fattori: sicuramente la burocrazia, il costo del lavoro e la poca flessibilità è un altro fattore che spaventa molto, e forse quello che spaventa maggiormente è il sistema giustizia. Quindi questi tre fattori allontanano davvero investitori esteri ad arrivare nel nostro paese. E a un solo anno e mezzo di distanza, cos'è oggi Fluentify in termini di struttura e anche risultati raggiunti? Oggi Fluentify sta crescendo, cresce più velocemente del previsto, e tra l'altro abbiamo da poco lanciato un nuovo servizio dedicato alle aziende, si chiama Fluentify for Business e serve per portare l'inglese, quello appunto vero, quello che serve per davvero per lavorare, per interagire con clienti stranieri e portare questo inglese negli uffici. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Oggi noi di Fluentify vediamo l'Italia come una grande opportunità ed è anche per questo che Fluentify ha deciso di investire nel nostro paese, in Italia. Per ripartire, per tornare a crescere, credo che l'unica cosa che non dovremmo fare è quello di cercare di replicare la Silicon Valley o la Tech City di Londra e replicarla, copiarla nel nostro paese. Quello che dobbiamo fare è partire dalle nostre eccellenze, da quello che sappiamo fare bene e portarle online. Nel mondo ci invidiano la nostra italianità, le nostre eccellenze, appunto il nostro Made in Italy, e noi non lo stiamo ancora sfruttando a sufficienza, siamo ancora abbastanza provinciali, ecco. Quindi portiamo queste cose online e portiamole all'estero, alla portata di tutti, oltre i nostri confini. E ci raggiunge ora in linea Matteo Avalle, responsabile della sede italiana di Fluentify. Buon pomeriggio, Matteo. Ciao a tutti. Con te ci occupiamo della seconda parte. A luglio Giacomo scriveva: giovani talenti, dopo diversi mesi di crescita, oltre alle aspettative, abbiamo deciso di investire in Italia. Abbiamo aperto una società nella penisola e molti ci hanno detto che si trattava di un'operazione rischiosa. Così ci scriveva Giacomo. Allora, Matteo, lo è stato? È stato un azzardo? Rispetto a quello che abbiamo fatto a Londra, di sicuro questa volta abbiamo avuto di un maggior bisogno di aiuto da parte di commercialisti e di esperti. Però ti posso dire che nel nostro caso non è stato poi così difficile, direi che per il momento è ancora andata bene. Sicuramente il fatto di avere già un'azienda alle spalle ha semplificato le cose. Chiaramente. Capitali e risorse straniere per aprire sedi in Italia e assumere qui, creando occupazione. Questo è un modello che, ricordiamolo, pratica da anni uno dei guru italiani nella Silicon Valley, Fabrizio Capobianco, e che anche voi in qualche modo state ricalcando. Allora, Matteo, è una strada praticabile per gli imprenditori italiani all'estero, soprattutto giovani imprenditori, e se sì, come? Secondo me assolutamente sì. Da un certo punto di vista non è neanche una cosa così strana. Ti racconto questo: prima di Fluentify io ho lavorato per 6 mesi in California, ho avuto modo un po' di vedere come funzionano le cose in Silicon Valley e posso dirti che non solo gli sviluppatori italiani non hanno nulla da invidiare ai lavoratori d'oltreoceano, ma anzi che questo lo sanno tutti. Infatti sono anni che i più grandi colossi dell'high-tech come Google, Microsoft o Facebook vengono in Italia per reclutare le menti migliori. Noi semplicemente abbiamo reso le cose più facili aprendo direttamente una sede qua. Esatto, esatto. Persone a lasciare il paese. Se in termini competitivi siamo i migliori, perché non creare qualcosa qui? Aspetti positivi e negativi nell'aprire un'azienda in Italia. Partiamo dalle difficoltà. C'è solo la burocrazia? In realtà, come ti dicevo prima, è vero che c'è molto più burocrazia rispetto anche a Londra, ma non abbiamo davvero incontrato così tante difficoltà. È vero che non avevamo particolari problemi né di soldi né di tempi, per cui c'è stato sufficiente rivolgersi a un commercialista e seguire le sue indicazioni. Di sicuro è stato comunque un processo più lungo che versare 15 sterline Chiaro. Su un sito web come abbiamo fatto a Londra. Però ci sono anche aspetti positivi, mi raccontavi preparando questa puntata, cioè avete scoperto facilitazioni per le startup che magari anche in pochi conoscono, no? Esatto, non molti sanno che in Italia, assumendo a tempo indeterminato delle persone al loro primo impiego, l'azienda può beneficiare per 18 mesi di un incentivo fiscale che pari a circa 2/3 del costo del dipendente, e questo sicuramente facilita molto in realtà come la nostra, dove praticamente abbiamo puntato tutto sulle persone. È uno dei tanti paradossi italiani, a volte siamo più avanti degli altri ma non lo sappiamo. Ti chiedo, come selezionate in Italia? Avete importato anche qui le best practices di selezione e raccomandazioni all'anglosassone? Allora, innanzitutto ti devo confessare che io prima di Fluentify non mi ero mai occupato di selezioni del personale, per cui sicuramente magari la mia procedura può non essere così efficiente. Anche se in realtà finora sono rimasto molto soddisfatto dei nostri acquisti. Il fatto è che io sono una persona molto pratica, per cui piuttosto che guardare curriculum e raccomandazioni, quello che mi interessa è trovare delle persone che siano cariche di entusiasmo e voglia di fare, possano mettersi sempre in discussione. Partiamo da un assunto: tutte le posizioni aperte le pubblicizzate, questo è importante. Sì, sì, sì, assolutamente. Questo è molto poco italiano. A quante assunzioni puntate? Dunque, noi speriamo di riuscire ad arrivare alla 20 di nuovi sviluppatori nei prossimi 12 mesi. Per chi si volesse candidare, a chi scrive? Per chi si volesse candidare, scriva a matteo@fluentify.com, inserisca il curriculum e pianificare un'intervista. Perfetto, perfetto, una bella selezione all'inglese, potremmo dire. Ha ancora senso, secondo te, Matteo, parlare di fuga dei cervelli o dei talenti, oppure sulla base della vostra esperienza e della vostra storia possiamo cominciare a progettare una circolazione dei talenti tra Italia ed estero con ricadute positive anche sul nostro paese? Io spero davvero che potremmo arrivare a parlare di una circolazione di talenti quanto prima. Il nostro è un paese fantastico e sarebbe bellissimo se sempre più aziende potessero seguire il nostro esempio. Noi possiamo solo dirvi che qua si sta molto bene e nonostante la burocrazia, aprire un'azienda in Italia è comunque possibile. Grazie a Matteo Avalle, in bocca al lupo, e torniamo a Giacomo Moiso per la domanda di rito. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Il mio consiglio è quello di non aver paura di fallire, perché un'esperienza all'estero non può mai essere un insuccesso, è sempre motivo di apprendimento, di scambio culturale per andare a capire come funzionano le cose al di fuori del nostro paese, e poi appunto arricchisce da un punto di vista personale ma anche da un punto di vista professionale, quindi assolutamente non pensarci due volte e vai. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Appuntamento con la rubrica Andata, a cura di Aldo Mencaraglia di Italians in Fuga, rubrica a cui dedichiamo ampio spazio ogni primo sabato del mese. Aldo oggi ci spiega perché è troppo rischioso abbinare l'espatrio a un cambio radicale di carriera. Sentiamo. Una domanda che ricevo frequentemente è: sto pensando di emigrare e contemporaneamente cambiare carriera. Cosa ne pensi? Spesso l'insoddisfazione relativa alla propria posizione lavorativa in Italia porta a contemplare un cambiamento sia di nazione che di tipologia di lavoro. Io ci penserei molto bene prima di farlo. Cambiare carriera è arduo anche per chi intende farlo all'interno della propria nazione di appartenenza. Il problema è che nel cercare di cambiare carriera mentre si emigra si devono saltare due ostacoli in un colpo solo: il cambio di nazione e il cambio di carriera. Il superamento di uno solo di questi due ostacoli è molto difficile per conto suo, soprattutto in un periodo di congiuntura economica negativa. Non suggerisco di non farlo, ma di invece pensare bene a se e come si possono utilizzare gli anni di esperienza maturati in Italia come biglietto da visita verso un'altra posizione all'estero. Altrimenti il rischio è che i selezionatori avranno di fronte qualcuno che non ha esperienza nella nazione e non ha esperienza nel settore. Due aspetti negativi della propria candidatura che dobbiamo evitare di proporre, perché stiamo aggiungendo incognite a incognite. È possibile che la selezionatrice all'estero nutrirà già dubbi sulla nostra reale volontà di trasferimento, sulla nostra capacità di comunicazione in una lingua straniera, sulla nostra capacità di adattamento a un diverso mondo del lavoro. Proporci per una tipologia di lavoro che non abbiamo mai fatto si rivelerà probabilmente un'incognita di troppo per una selezionatrice che non vuole rischiare proponendo candidati incerti, tra virgolette. Le probabilità di essere meno appetibile degli altri candidati per quella posizione lavorativa aumentano quindi enormemente. L'esperienza maturata in Italia è la base del trasferimento all'estero. Io consiglio di sfruttarla il più possibile per crearsi il ponte verso un'altra nazione. Magari poi scoprite che fare il vostro lavoro in una nazione diversa e probabilmente in un modo diverso farà rinascere la passione che vi aveva indirizzato verso quella carriera agli inizi. Una volta trovato il primo lavoro all'estero, il cambiare carriera diventerà relativamente più facile e potrete farlo con basi più solide. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansinfuga.com, email italiansinfuga@gmail.com. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire a blog, aperto l'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Give Back. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di novembre. Tempo di give back per i giovani italiani espatriati, imprenditori e non. In un momento così cruciale per il paese, quali possibili contributi pensate di dare al vostro paese d'origine per far ripartire l'economia e ricominciare, soprattutto se li merita? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.